Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono e lo ricordo, stasera ospiti Dial Maze. Con voi e con loro ascolteremo sei brani del disco Fight Black Sun, come ad esempio il primo ascoltato, titolo National Builder. La vostra esperienza nello studio di registrazione e quali le idee musicali che hanno poi realizzato e dato vita a questo primo album? Idee, guarda, c'erano già, ne avevo io già pronte, anche Alessandro, il nostro chitarrista, ne aveva, quindi quando ci siamo formati le abbiamo buttate giù, le abbiamo arrangiate e quindi sì, dopo alla fine non vedevamo l'ora di registrarle. Sì, però diciamo che personalmente non sono contento. Il non è mai contento. No, ovviamente. No, ma io sì, l'esperienza di studio proprio nella registrazione non è che non sono proprio. Magari il fonico ti sta ascoltando in questo momento. Sì, sì, se mi ascolta magari. Ci aspetta fuori. Sì, ragazzi, venite fuori un attimo. Diciamo che sono stato io anche quello che, ovviamente, non accontentandomi mai. È più pignolo, diciamo. È stato dai. Quello che ha voluto rifare tutto quanto. Comunque poteva andare meglio, ecco, diciamo, c'erano dal mio punto di vista. Sì, c'erano delle divergenze di idee, praticamente. Non riuscivamo a saltarci fuori. Sì, sì, sono stati più problemi. Vabbè, comunque, dai. La prossima canzone per chi ci ascolta. La prossima si intitola A Man Behind the Mirror. In studio ancora con i Dial Maze, recensioni se ce ne sono, quali le più interessanti e cosa dicono del vostro album? Sì, finora ci sono state solo alcune recensioni in quanto il CD non è ancora uscito, ma sono buone, diciamo, a parte una che sì, ci ha proprio ci ha pestato. È stata cattivella. Sì, sì, a partire dalla copertina che non è un granché, all'interno, alla cioè sì, beh, ancora un po', non beh, so. Beh, non tutti può piacere. Giudicheranno i vostri fans, sì, sicuramente. Come, scusa? Giudicheranno i vostri fans. Sì, sì, beh, giustamente. Sì, sì. Io che lascio... si parli bene o male, l'importante è che si parli. Che si parli. Diceva un certo Oscar Wilde. Esattamente. La prossima canzone per chi ci ascolta. La prossima si intitola Going to the Grind. Noi torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con i Dial Maze. Voi restate sempre su Radio RCS.